Ci sono state tre manifestazioni molto grosse, due manifestazioni a livello cittadino e una street parade più a livello di quartiere. La street parade è stata molto tranquilla, c'era tutta la gente del quartiere di Friedrichshain, mentre le due manifestazioni più grosse erano più a livello cittadino. E non solo, ci sono state manifestazioni spontanee in tutta Berlino, in tutti gli altri quartieri. E questo è stato molto importante perché c'è stata una sorta di rivolta popolare. C'erano le strade interrotte dai, non erano carri armati, ma più o meno diciamo che guardando la città è stata una città ed è tuttora una città militarizzata, completamente militarizzata. Ci sono state manifestazioni in tutta la Germania, per cui ha avuto un risalto a livello europeo. Si hanno fatto manifestazioni anche in Inghilterra, l'ambasciata alemana e tedesca anche in America c'è stato demo e sopporto. Sì, no, dicevo che l'impressione è stata quasi da guerra civile tutti contro tutti. Le forze di polizia si sono comportate veramente da forze di polizia. Repressione veramente incredibile. Ieri c'è stata la manifestazione, hanno diviso la manifestazione in tre tronconi, non l'hanno fatta arrivare nel posto dove doveva arrivare, anche se la manifestazione era legale, non era una manifestazione spontanea, non era un flash mob, non era niente di tutto ciò. E le persone si sono trovate, io stessa, trovate incastrate. Non potevi uscire, non potevi andare da nessuna parte e ti dovevi beccare le cariche della polizia a caso. Non solo, tornando a casa, questi facinorosi bullen. Chiudevano le strade a caso praticamente, arrivavano con la camionetta, scendevano e non ti facevano più passare, quindi se eri dentro o fuori potevi entrare e uscire o col documento di identità oppure te ne dovevi aspettare che loro togliessero le barricate. Questa notte ci sono stati scontri a Volkshagenplatz, ci sono stati scontri a Warschauerstrasse e credo che siano continuati tutta la notte. Ma era quasi impossibile circolare per Berlino perché vestito di nero e soprattutto con una videocamera in mano era praticamente impossibile filmare. Ci sono stati 80 arresti, sembra che 20 persone siano uscite. Credo che in questo pomeriggio spero che ne usciranno delle altre. Ci sono tutta la polizia in borghese che presidia tutti gli Hausprojekt di Berlino e li abbiamo anche qui davanti in Bodikestrasse, che ci sono da circa 4 giorni e c'è una camionetta della polizia che fa il giro costantemente di questa strada. E appunto è una città militarizzata in questo momento, soprattutto da quelli borghese, che sono tantissimi, perché se i poliziotti, chiamiamoli quelli normali, quelli vestiti da poliziotti, io ho letto che erano 2000-2500, poi Sì. non so quanti ne sono stati utilizzati o meno, quelli in borghese sono altrettanti. E quella forse è la cosa che fa più, tra virgolette, paura, perché potresti essere fermato in qualsiasi momento senza aver fatto niente. Diciamo che in 3 giorni mi sono stati chiesti i documenti circa 10 volte. È una buona media, sì. La gentrification a Berlino è partita dopo la caduta del muro, soprattutto qui a est. Quindi diciamo che già ci sono quartieri che sono stati già gentrificati, non so se si può dire questa parola in italiano, tipo Prenzlauerberg. O tipo Kreuzberg, e ora è la volta di Wedding, Neukölln, e chiaramente anche questo quartiere che è a metà, diciamo, la gentrification. Diciamo che ancora ci sono quartieri popolari, ancora la gente vive con poco, abbastanza, gli affitti non sono così altissimi, però si sta avviando verso quella dimensione, diciamo. Sì, la rinnovazione di tutto il quartiere e fare appartamenti di lusso dove prima c'erano edifici Popolare. popolari. No, io volevo aggiungere questa cosa sull'Liebig, che visto che lo sgombero è stato annunciato, che si sa da tanti mesi che il Liebig era sotto sgombero, È stato organizzato un festival di 14 giorni per il Liblig 14, che è stato molto interessante perché ci sono state da azioni anti-gentrification, dimostrazioni, concerti, street parade, cucina popolare, eccetera eccetera, di tutto di più, sì, diciamo, film, interventi, readings, appunto per in tutto Berlino, in tutta Berlino, sì, diciamo, proprio per porre l'attenzione su questa questione, che fine faranno tutti questi house project e qual è, diciamo, la come si possono difendere. Magari anche si può dire che l'XB e il 94 adesso sono in rischio, adesso che hanno cominciato a pulire quell'angolo della città, ci stanno questi altri progetti che stanno in rischio di essere sgomberati presto, no? Anche se hanno tutte, sono legalmente. Ci stiamo cercando di chiedere un nuovo posto, una nuova casa per fare il gruppo dell'IB14 un nuovo progetto. Si è fatto un'offerta una volta, però era in Weissensee, fuori del di Berlino. Ogni quartiere c'ha il suo centro e c'ha una sua periferia, quindi Liblig è al centro di un quartiere. Quindi rientra perfettamente nel concetto di gentrification che c'è anche in Italia o che c'è in Spagna o che c'è a Parigi, cioè il senso è buttare fuori le persone dal centro e mandarle sempre di più in periferia. Ich ersticke die Welt, die ich geboren habe.